E buonasera a tutti e rieccoci nuovamente insieme a gente che legge cose. Oggi vogliamo tornare alle origini. È passato un anno dalla nascita di Radio Godzilla e noi di questa trasmissione abbiamo deciso di tornare un po' indietro nel tempo e tornare a leggere le etichette. Etichette con cui cominciammo questa trasmissione un po' di tempo fa. Ma più che le etichette nello specifico dei prodotti, leggiamo le avvertenze dei prodotti stessi. Etichette trovate su articoli regolarmente in vendita. Su una coperta da Taiwan, non usare come protezione da un ciclone. Su uno specchio usato da ciclisti negli Stati Uniti, ricordarsi che gli oggetti nello specchio sono realmente dietro di voi. Su uno shampoo di Taiwan, usare ripetutamente per danni seri. È quello che ho usato io nel tempo. Su un pacchetto di patatine, puoi essere un vincitore. Non è necessario acquistare i dettagli all'interno. È un invito al taccheggio. Su una bottiglia di una bevanda a base di latte aromatizzato, dopo l'apertura, mantenere verticale. Su uno spray contro gli insetti della Nuova Zelanda, questo prodotto non è testato sugli animali. Beh, giusto, mi sembra molto giusto. In una guida statunitense per settare un nuovo computer, per evitare la condensa, lasciare che la scatola si riscaldi fino alla temperatura ambientale prima dell'apertura. Ragionevole, ma l'istruzione era all'interno della scatola. Su un prodotto giapponese usato per alleviare le emorroidi dolorose, stando sdraiati nel letto, inserire Proscool lentamente fino all'impugnatura nel condotto anale. Mentre si inserisce Proscool per circa 5 minuti, conservare la calma. Beh, questo dipende dai punti di vista. In alcuni paesi, sulla parte inferiore delle bottiglie di Coca-Cola, aprire l'altra estremità. Cosa avrà voluto dire? Su un pacchetto dell'uva passa, perché non prova a metterlo sopra i suoi cereali favoriti? Questa non mi fa tanto ridere. Su un casco da parrucchiere, non usare mentre si dorme. Sulla manopola di un distributore di sapone, attenzione, usare sapone normale. Vorrei sapere com'è l'altro. Su una scatola di dessert, tiramisù, stampato sulla parte inferiore della scatola, non girare sotto sopra. Ci devono pensare prima. Sui contrassegni del pane di Spencer, il prodotto sarà caldo dopo il riscaldamento. Grazie al cazzo, è scritto anche nell'etichetta. Su un coltello coreano da cucina, conservare lontano dai bambini. Tutti mettiamo il coltello nella culla e chi non ha figli non sa, non può capire. Su un presepe di Natale fatto in Cina, soltanto per uso all'interno e all'esterno. Questo perché non puoi usare questo presepe in una terza dimensione, ecco. Su un forno giapponese, non essere usato per altro uso. In effetti puoi lanciarlo un forno dal balcone. Sulle arachidi di Sainsbury, attenzione, contiene arachidi. Anche qui, come sopra, grazie al cazzo. Su un pacchetto di arachidi dell'American Highlands, istruzioni, apri il pacchetto, mangia le arachidi. Beh, complicato. Su una motosega svedese, non tentare di restare la catena con le mani o con i genitali. Forse volevano dire non fermare la catena a cazzo. Su un costume da Superman per bambini, l'uso di questo indumento non vi permette di volare. Poveri bambini. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh senti ancora quella storia rara. Non so già si fatica a stare soli. Sai che rimango qua finché vuoi. Io capisco, vedi come stai. Posso in te, credo che reagirei. Che consigli vuoi da me? Se poi fai ciò che vuoi te, sai che mai ti direi, vada lei. Oh, se una ragola c'è, non la chiedere a me, e li devi pregare se lo puoi. Se l'umore va giù, se non ce la fai più, guarda che non esiste solo. Eccoci di nuovo insieme dopo questo pezzo e continuiamo a leggere delle etichette assurde. Le etichette per idioti, gli avvisi che servono alle persone a evitare di farsi davvero tanto male utilizzando in maniera impropria dei prodotti. Sull'imballo di un ferro da stiro roventa, non stirare gli indumenti indossandoli. Peccato, perché sarebbe una pratica in realtà molto veloce, non l'ho mai fatto, ma perché semplicemente io non stiro. Su una medicina per la tosse per bambini, non guidare autovetture né condurre macchinari dopo aver assunto questa medicina. Beh, questo avviso in realtà, che può sembrare banale, avrebbe evitato tanti danni dal posto in cui vengo io. A 5 anni, 10 anni già si guida. Sul sonnifero Nitlon. Attenzione, può causare sonnolenza. Beh, lo compro per quello. Su una macchina multiuso da cucina, da non usare per altri usi. Beh, è multiuso, perché no? Sul salmone commercializzato da Salisbury, attenzione, contiene pesce. Beh, meglio così. Sull'avvertenza nella confezione del Prozac, farmaco antidepressivo, possibili effetti collaterali, ansia, suicidio, ma così. Attenzione, non spruzzare sugli occhi, avviso su una bomboletta di deodorante per le ascelle, che in realtà, provatelo, magari si sbagliano. Non guidare con il parasole sul vetro, avviso su un parasole di cartone per la parabrezza. L'adesivo in una toilette di un locale pubblico nel Michigan avvisa: l'acqua dello scarico non è buona da bere. Bah, molti cani non sarebbero d'accordo. Questo prodotto non deve venire usato nei bagni, etichetta su una stufetta da bagno. Non utilizzare la fotocamera nelle condizioni ambientali riportate di seguito, temperatura meno 40 gradi Celsius. Questo è un po' discriminante nei confronti dei siberiani, degli eschimesi, non è giusto. Attenzione, non utilizzare mentre state facendo la doccia, avviso la confezione di un asciugacapelli. Mi sembra abbastanza giusto. Tutti i DVD distribuiti dalla Warner Bros. Home Video sono prodotti non commestibili. Se accidentalmente ingeriti, possono nuocere gravemente alla salute. Ma chi non è capitato di ingerire accidentalmente un CD? Ed è per questo che la tecnologia è stata poi tolta dal mercato, sostituita dalle schede SD molto più piccole e quindi evitano soffocamenti. Non mettere il bambino nella borsa. Etichetta su un passeggino per bambini con la borsa per gli oggetti davanti. Però in realtà credo che sia un po' una cosa che rallenta il processo di ripostaggio del bambino. Ripostaggio, che vuol dire? Non lo so. Magari del processo di posatura del bambino. Non lo so, non ho figli, non so cosa sto dicendo. Attenzione, si consiglia l'uso di occhiali protettivi. Avviso sulla confezione di un tagliacarte. Non è adatta all'uso su autostrada. Avviso su una ruota da 33 cm per carriole. Beh, ci sono carriole modificate che potrebbero fare anche molto meglio. Il pennarello con inchiostro simpatico non deve essere usato come strumento di scrittura per firmare a segno qualsiasi altro documento legale. Avviso sulla confezione di un pennarello con inchiostro simpatico. Ah, ecco perché. Non usare vicino a fuochi, fiamme o scintille. Avviso sulla confezione di un accendino. Yeah. mette tutto. Allora, signori, abbiamo lavorato tutto il giorno, è il momento della locura, motore! E andiamo a girare, signori! Azione! E dopo questo brano continuiamo la nostra lettura di avvisi per idioti scritti da idioti. Pericolo: evitare la morte. Etichetta su un piccolo trattore da giardino. Mi sembra uno dei migliori consigli mai letti. Non collegare il PC in internet in modo che gli hacker non possano individuarlo. Dalla confezione di Norton Security 2005. Anche questo è un ottimo consiglio. Non usare la cera soffice come tappo per le orecchie o per ogni altra funzione che comprenda l'inserimento in una cavità corporea. Avviso su una scatola di candeline per toaster di compleanno. Che compleanni festeggiate? Non usare mentre si dorme o si è in stato di incoscienza. Etichetta su un massaggiatore manuale. Ecco, qui invece vorrei soffermarmi per dire a tutti e a tutte: non usare il massaggiatore manuale quando si è in stato di incoscienza. Mi sembra assolutamente una cosa giusta. Rimuovere il bambino prima di piegare. Etichetta su un passeggino per bambini. Per poter utilizzare le funzionalità di internet è necessario l'accesso a internet. Grazie al cazzo. Dalla confezione di Microsoft Flight Simulator 2002, edizione Professional, dell'edizione invece Consumer, questo non è scritto. In una lavanderia gettoni negli Stati Uniti, non introdurre persone nella lavatrice. Non usare fiammiferi accesi o fiamme di alcun tipo per controllare il livello di benzina nel serbatoio. Avvertimento nel libretto di istruzioni di una moto d'acqua. Probabilmente qualcuno questa cosa l'avrà fatta. Non stirare. Avviso sul libretto della lotteria, ovviamente sempre negli Stati Uniti. Non asciugare il telefono nel forno a microonde. Istruzioni di un telefono cellulare. Sulle Yellow Page, le pagine gialle d'America, l'annuncio recita: non sfogliare mentre sei alla guida di un veicolo. Ottimo. E dopo aver finito di leggere questi avvisi sulle etichette, passiamo dal più classico scemo chi legge a scemo chi scrive, e leggiamo avvisi scritti da idioti per idioti, e sono a tema ecclesiastico. Le confessioni di oggi termineranno esattamente alle 17:30, pertanto, onde evitare code, si richiede ai fedeli di elencare solo peccati e trasgressioni e non i motivi per cui sono stati commessi. Ricordate nella preghiera tutti quanti sono stanchi e sfiduciati della nostra parrocchia. Martedì sera, cena a base di fagioli nel salone parrocchiale. Seguirà concerto. Il coro degli ultrasessantenni verrà sciolto per tutta l'estate, con ringraziamenti di tutta la parrocchia. Chissà, quest'estate, quanto è stata calda. Il torneo di basket delle parrocchie prosegue con la partita di mercoledì sera. Venite a fare il tifo per noi mentre cerchiamo di sconfiggere il Cristo Re. Probabilmente questa è la parrocchia di Giuda. Il gruppo di recupero della fiducia in se stessi si riunisce giovedì sera alle 7. Per cortesia, usate la porta sul retro. In effetti. Il concerto parrocchiale è stato un grande successo. Un ringraziamento speciale alla figlia del diacono che si è data da fare per tutta la sera al pianoforte, che come al solito è caduto sulle sue spalle. Beh, una ragazza molto forte. Per tutti quanti voi hanno figli e non lo sanno, abbiamo un'area attrezzata per bambini. Dove? L'ama? Venerdì sera alle 7 i bambini dell'oratorio presenteranno l'Amleto di Shakespeare nel salone della chiesa. La comunità è invitata a prendere parte a questa tragedia. Beh, come dargli torto. Giovedì alle 5 del pomeriggio ci sarà un raduno del gruppo mamme. Tutte coloro che vogliono entrare a far parte delle mamme sono pregate di rivolgersi al parroco nel suo ufficio. Mi sembra anche questa un'ottima possibilità. Il gruppo dei volontari ha deposto tutti gli indumenti. Ora li potete vedere nel salone del parrocchiale. Chi? I volontari o gli indumenti? Un nuovo impianto di altoparlanti è stato installato in chiesa. È stato donato da uno dei nostri fedeli, in memoria di sua moglie. Questa è un po' sottile. Care signore, non dimenticate la vendita di beneficenza. È un buon modo di liberarvi di quelle cose inutili che vi ingombrano la casa. Portate i vostri mariti. Tema della catechesi di oggi. Gesù cammina sulle acque. Catechesi domani in cerca di Gesù. Questa fa veramente molto ridere, ma siccome sono un professionista, io non riderò. La signora è ancora in ospedale e ha bisogno di donatori di sangue per trasfusioni. Ha anche problemi di insonnia e richiede le registrazioni delle catechesi del parroco. Mi sembra giusto. Il costo per la partecipazione al convegno su preghiera e digiuno è comprensivo dei pasti. Per favore, mettete le vostre offerte nella busta assieme ai defunti che volete far ricordare. Deve essere una busta molto, molto grande. Ringraziamo quanti hanno pulito il giardino della chiesa e il parroco. Perché? Perché non pulire il parroco quando si pulisce il giardino? Mi sembra anche un minimo di cortesia. Il parroco accenderà la sua candela da quella dell'altare, il diacono accenderà la sua candela da quella del parroco e voltandosi accenderà uno a uno i fedeli della prima fila. Questa fa pure ridere e ho riso perché non sono così professionale come sembrava. L'ultimo che esce, per favore, controlli che la luce perpetua sia spenta. Ma che buona! Questa è dolce droga. Ma che buona. Questa è dolce droga. Ma che buona. Questa è dolce droga. Ma che buona. Questa è dolce droga. Ma che buona. Questa è dolce droga. Ma che buona. Questa è dolce droga. Che buona. Questa dolce droga squisita. Ma che buona, questa dolce droga. Ma che buona, questa dolce droga. Ma che buona, questa dolce droga. Ma che buona, questa dolce droga. Sul collo una pastiglia che mi assomiglia. Cara mamma anche sua figlia con quella pastiglia. Ya, ya, ya, ya. Le lanciamo chicca, ya. Vuoi dare una chicca, ya. Ce l'ho sulla lingua, sono senza una cifra, ehi. Scemo, cosa vuoi da me? Ia, ti mangio come una pasta, ia. Io le dico sottovoce, ia, che sembra la dolce droga. Sul collo quella caramella, se l'accorge me la lecca. Dolce, dolce droga. Puoi chiamarmi Paolo Moda. Puoi chiamare la tua troia. Che ho due ore che si accolla. Giro, giro, rrrra. Sopra che sono una giostra. Se lo senti, zuccherina. Sì, quella lì è dolce droga. Ho la testa che ho, oh, mamma. È completa, ma che vuota. Questa dolce droga. Ma che buona. Questa dolce droga. Ma che buona. Questa dolce droga. che buona questa dolce droga, squisita, ma che buona questa dolce droga, ma che buona questa dolce droga, ma che buona questa dolce droga, ma che buona questa dolce droga. E come di consueto siamo i saluti di questa breve ma intensa trasmissione. Vi ricordiamo che Radio Godzilla è online, on air, ogni mercoledì. Da che ora non si sa, dipende molto dalla voglia, dalla possibilità. Possibilità, e si sa, fa rima? No, credo è assonanza, non è una rima, è un'assonanza. Comunque, signori e signore, amiche e amici, e tutto quanto volete sentirvi essere, non è italiano, ma non ce ne frega niente, amici e amiche, amico, ricordatevi di collegarvi su Radio Godzilla ogni mercoledì, di ascoltare tutte le fantastiche trasmissioni che la compongono e soprattutto di chiamare lo 06 23 23 23 23 e richiedere per la prossima settimana qualunque cosa voi vogliate che noi leggiamo. Un abbraccio. Camminavo per strada in silenzio e sentivo alle spalle la gente che piano diceva come tu mi tradisci e come io sono finita da sola. Poi qualcuno con tono da inutile santo era molto spiacente per me, proprio tanto, che talento sublime per fare del male che c'è nella gente. Mio Dio, che voglia di girarmi e di gridare forte voi. Voi che cosa sapete delle mie cadute, dei disastri miei? Stupidi, stupidi, non ne sapete niente, niente. Voi, dov'è lui? Cos'è lui? Voi non ci arriverete proprio mai. Amore mio, amore mio, vieni a dire qualcosa. Ed ancora più strane alleanze, tutte vogliono dire, non dire il problema di certe tue assenze. Ogni sguardo che incontro nel bar sotto casa è un incrocio di pena e di tacita intesa, e qualcuno poi scuote la testa per dire capitolo chiuso. Mio Dio, che voglia di girarmi e di gridare. Voi sapere.